Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 19 luglio, buongiorno e buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori di Liberi Dentro e Eduradio TV. Io sono sempre Caterina, alla conduzione di questo programma con Antonella Cortese qui con me in redazione. Ciao! Ciao Caterina, buongiorno a tutti. E lo diciamo perché il crowdfunding che abbiamo lanciato da inizio luglio e che ci accompagnerà fino al 31, è data ultima in cui sostenerci e donare, sta andando davvero molto molto bene. La nostra intenzione è quella di rilanciare, se arriviamo ai 5.000 aiutateci ancora, perché così possiamo coprire anche il mese di settembre, continuare a produrre le nostre trasmissioni, le nostre rubriche Oggi Parliamo Di, che coinvolgono più di 18 collaboratori, ormai sono enti che sono entrati in questa rete, che ci stanno veramente dando una mano a portare la loro verve, la loro voce all'interno delle carceri. Potete continuare a darci il vostro aiuto donando sul sito www.ideaginger.it, cercando il nostro progetto che si chiama Eduradio TV. Grazie. Esatto, grazie. E cominciamo la nostra rassegna che per tutta la settimana sarà dedicata ai fatti riguardanti il carcere, in particolare di Santa Maria Capua Vetere. In questo caso la notizia la leggo da Ristretti Orizzonti, a firma della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, che come sapete è la conferenza che rappresenta enti, associazioni, gruppi impegnati quotidianamente in esperienze di volontariato negli ambiti carcerari, ed è già stata istituita nel 1998. Il titolo è Santa Maria Capua Vetere, l'indignazione non basta. Perché i pestaggi, le violenze inaccettabili e i danni delle persone detenute presso l'istituto di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta ci devono indurre a una riflessione, secondo la nota della conferenza. Tutti ci dovremmo interrogare su quelle che sono le reali condizioni del mondo carcerario. E fa quasi sorridere, ed è un sorriso certamente amaro, vedere ora l'indignazione, sottolinea la nota, di certe persone e istituzioni quando i segnali evidenti della stortura del sistema penale c'erano già da parecchi anni. Sì, senti Caterina, che cosa dire sul ruolo degli agenti di polizia penitenziaria? Qual è la valutazione della Conferenza Volontariato e Giustizia in questo senso? Allora, è percepito come ingiusto additare interamente al corpo di polizia penitenziaria una vergogna. Totale, diciamo, un'assunzione di responsabilità totale, perché comunque viene riconosciuto che anche gli agenti in un certo modo si trovano a condividere esperienze di difficoltà con le persone detenute. Gli agenti sono persone che spesso si trovano ad affrontare l'esperienza di chi viene recluso. Però l'indifferenza delle istituzioni si riflette anche in una indecorosa carenza di organico e di risorse economiche rispetto al delicatissimo fine cui l'esecuzione della pena è destinato. E quindi sono soli, in pratica. È molto importante la presenza della società civile in carcere, oggi più che mai, anche perché per vigilare dove i diritti sono calpestati, diciamo, l'occhio della società civile è molto, molto importante. Sì, è verissimo. Infatti il carcere è sempre stato duro, ma più duro è stato nel corso di quest'anno e mezzo di pandemia, che ha forzatamente separato due mondi. Ci ha isolati, scrivono nella nota, ha interrotto prassi e collaborazioni, ma è fondamentale riprendere a lavorare insieme. Non serve quindi arrivare alle aberrazioni a cui abbiamo assistito, ma per pensare di prevenire e agire nell'ascolto e nel dialogo bisogna includere le persone detenute nei modelli di riaccoglienza di cui tutti sentiamo un fortissimo bisogno, oggi più di ieri, sottolinea la nota. E tutta la settimana sarà dedicata a notizie su Santa Maria Capua Vetere e non soltanto, perché abbiamo anche sentito i fatti di Piacenza, si cerca di fare giustizia anche sui fatti di Modena, per esempio, e lo vogliamo fare facendolo anche un approfondimento con gli ospiti nella parte seguente al nostro editoriale con le notizie. Perché ci sembra giusto intervistare chi di queste cose è più competente e può fornirci un punto di vista di approfondimento. Sì, infatti è molto importante avere le letture di tutti quelli che in questo tipo di situazione l'hanno vissuta e osservata. Ma passiamo alla musica, Caterina. Che cosa ci fa ascoltare questa settimana? Io ho scelto, proprio perché il tema sarà questo, è un po' molto riflessivo, una playlist tutta dedicata a canzoni che vanno nel profondo e si interrogano sul senso della vita. Quindi la prima di queste è famosissima Imagine di John Lennon. Ascoltiamola. No hell below us. the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. Rieccoci, bentornati sulle note di John Lennon, Imagine. Siamo sempre su Liberi Dentro e Duradio, il nostro programma che parla al carcere, alla cittadinanza. E Antonella, un po' di cultura e società, purtroppo notizie tristi, perché ci ha lasciato Raffaella Carrà. Sì, purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, e ci ha lasciato un'icona della musica pop che ci ha accompagnato per tantissimi anni. Vi leggo una piccola osservazione, anzi un'intervista, che Raffaella Carrà ha fatto al Corriere della Sera, in cui ha detto: nel giro di poco tempo mi sono vista ben due volte al telegiornale, mi sono detta, oddio, che succede? Oppure ho pensato, la terza volta diranno che sono morta, e ho toccato ferro. Beh, Raffaella era anche molto ironica, emiliana, spontanea, divertente, insomma aveva molte doti, così come era molto invece molto riservata nella vita privata. E effettivamente è stata osannata dai media per un paio di motivi precisi. Uno, soprattutto perché si è trovata al centro dell'attenzione europea, soprattutto grazie ad un articolo del quotidiano inglese The Guardian, e che le ha dedicato proprio un servizio. Infatti c'era scritto, il titolo era questo: Raffaella Carrà, the Italian pop star who taught Europe the joy of sex. Cioè, Raffaella Carrà, la pop star italiana che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. La seconda invece era per il video diventato virale su Twitter dell'anno scorso, che mostra il ballo di Raffaella Carrà e Celentano a Mille Luci nel 1974 sulle note di Prise in Collines and Unchosen, un video definito tra i più belli nel mondo dello spettacolo. Ma chi era esattamente questo personaggio, questa grande icona? Allora, prima di tutto era una icona local, diremmo oggi, perché nasce a Bologna il 18 giugno del 1943 e comincia da subito a sviluppare una grande passione per il ballo e il canto, fino poi a decidere di debuttare in televisione con Tempo di Danza nel 1961, quindi giovanissima, a fianco di Lelio Luttazzi. Poi continua con Scaramouche nel 1965, ma la sua vera svolta è stata nel 1970 con Canzonissima. Si può dire che in questo modo la Carrà abbia inaugurato il concetto di showgirl in un'epoca di bianco e nero. In effetti il TV a colore arriverà nel 1977 e aggiungerei che al tempo c'erano 2-3 canali che si potevano vedere, quindi gli italiani che possedevano una TV potevano soltanto guardare Canzonissime in realtà. E il grande successo poi le permette di avere un programma tutto suo. Siamo nel 1984, arriva Pronto Raffaella, poi i Domenica In, che è una trasmissione che dura per tantissimo tempo, comincia nel 1986, Fantastico 12, E Raffaella però ha anche molto successo all'estero, in particolare in Spagna. Infatti non è un caso che la nazionale italiana e la nazionale spagnola nell'ultima partita che hanno giocato insieme per gli europei abbiano appunto mandato un pezzo di Raffaella prima dell'inizio della partita. Comunque, Raffaella comincia un programma in Spagna che si chiama Hola Raffaella per la televisione spagnola e torna in Italia nel 1995 con Caramba che sorpresa. Poi Caramba che fortuna, insomma, più di un Caramba. Arriviamo nel 2001, conduce anche Sanremo e nel 2004 un programma che si chiama Sogni, ma il programma a cui rimane più legata si chiama Amore del 2006, dedicato alle adozioni a distanza. Potremmo dire, insomma, una showgirl a tutto tondo. Eh beh, è proprio così, Caterina, perché ballava, cantava, presentava. È stata anche un'attrice, ha recitato accanto a Frank Sinatra, per dire. E voglio ricordare qualche canzone che hanno sentito tutti, perché poi ci sono anche dei remake. Forte, forte, forte, Pedro, A far l'amore comincia tu, Fiesta. E proprio una di queste che ho citato, A far l'amore comincia tu, è stata utilizzata come colonna sonora nella Grande Bellezza di Paolo Sorrentino ed è un remake del DJ Bob Sinclair. Ma raccontaci un po' la risonanza di questo personaggio all'estero. Era conosciuta così tanto come in Italia? Allora, sì, è proprio così, Caterina. Adesso vi leggo qualcosa che scrive ancora il The Guardian. Non sorprende che sia diventata un'icona gay internazionale. Ha insegnato alle donne che avere libero arbitrio in camera da letto non era scandaloso. E nelle sue canzoni, in effetti, parla proprio di questo. Ed è diventato un po' un inno alla libertà sessuale. Quindi non resta che lanciare un brano della grande Raffaella. Prima però. Sì, prima però voglio dire che dovete ascoltare ancora, ancora, ancora per tutto il mese il nostro stacchetto virtuoso per aiutarci sempre anche in settembre. Torniamo a Raffaella. Allora, Raffaella con Bob Sinclair nella canzone A far l'amore comincia tu. Ascoltatela. Liberi Dentro Eduradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. L'ICP di Ferrara, attraverso Eduradio, coglie l'occasione per sostenere la rete delle associazioni, dei volontari e degli enti che in carcere promuovono cultura. Ecco cosa scrive una persona detenuta. La trasmissione è stata un punto di riferimento. I 30 minuti radiotelevisivi hanno testimoniato a quanti vivono come me nelle galere, che tutto sommato non si è poi tanto soli. Io ho lavorato a un questionario rivolto alla cittadinanza per verificare l'ascolto e il gradimento della trasmissione radiotelevisiva Liberi Dentro Eduradio. Più del 90% delle persone intervistate l'ha trovato molto utile per conoscere ciò che succede all'interno e intorno al carcere. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. bentrovati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Abbiamo l'onore di avere come ospite Nicola D'Amore, agente penitenziario della sezione penale maschile e rappresentante del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe. Buongiorno e grazie di essere qui. Sì, buon pomeriggio. Grazie a voi per lo spazio dedicatomi. È un'occasione un po' anche per raccontare in maniera non filtrata quello che è il carcere, ecco. Quindi il carcere è fatto di esperienze positive sicuramente, ma anche ci sono anche delle brutture, se proprio forse le immagini più struggenti sono proprio quelle che comunque ci arrivano dalla Campania, da Santa Maria Capo Vetere, che buttano delle ombre su tutta l'amministrazione penitenziaria, ma in particolar modo su un'istituzione che è la polizia penitenziaria, che è fatta anche di uomini, comunque persone oneste, anzi la stragrande maggioranza che lavora tutti i giorni con notevole difficoltà e con pochi strumenti, ecco, e con un legislatore deliberatamente assente. Esatto, agente, il tema è proprio questo. La ministra Cartabia ha usato parole molto dure nei confronti di questa vicenda, ha parlato di tradimento della divisa e tradimento della Costituzione. Io ora le chiedo che lettura dà lei di questi fatti e come si arriva a superare certi limiti. Il mio non è un voler essere un giudizio, io mi limito ai fatti, alle immagini che ho potuto comunque visionare, che oramai popolano i social media. Beh, le immagini sono struggenti, sono di una violenza inaudita, condanno a priori, condanno sia come sindacato di polizia penitenziaria che come appartenente organico di polizia penitenziaria. E sono immagini davvero inquietanti, purtroppo un'idea di quello che sarebbe successo, ma l'ho fatto già un anno fa, quando di fronte all'intervento dei carabinieri fuori dal carcere, le manifestazioni dei miei colleghi, il fatto di salire sul tetto, oppure le smargiassate, mi scusi se mi lasci passare questo termine, beh, non è proprio di un rappresentante dello Stato. Ho visto delle immagini del più basso folklore, ecco, è stato un anticipo già l'anno scorso, quindi non resto meravigliato. D'altronde, dove c'è povertà culturale, dove comunque le scorciatoie sono una regola, beh, non è che si possono ottenere risultati diversi rispetto a quello che comunque poi abbiamo visto nei giorni scorsi. Tutti comunque siamo rimasti indignati. Beh, direi che la vera nota dolente di questa vicenda è non la netta condanna da parte dei sindacati di polizia penitenziaria, ecco. E ci siamo indignati 20 anni fa di fronte alle immagini di Guantanamo. Credo che queste erano peggio delle immagini di Guantanamo. E quindi chi ha letto La banalità del male di Hannah Arendt sa comunque effettivamente, oppure non andando molto lontano, i fatti più recenti, i fatti degli anni 80, dell'obbedienza dovuta, i fatti della dittatura in Argentina, quindi qualsiasi cosa, spostare sempre le responsabilità sopra al superiore o sugli altri, non è così, perché ci sono degli atteggiamenti che costituiscono reato, sono atteggiamenti gravissimi e non vanno affatto eseguiti, ecco, tutto qua. Quindi io ho avuto sempre una vita difficile all'interno dell'istituzione penitenziaria. Per questo mio modo di pensare sono stato isolato, ma ho sempre superato questa diffidenza, tuttora la vivo, questo pregiudizio, questa stigma che mi porto al seguito, però sono libero di dire ciò che penso e non mettere la mia mano nella testa di nessuno, e soprattutto indipendente, ecco, questa è la vera forza, ecco, altrimenti si è suddito di una situazione che comunque non migliorerà mai, altrimenti. Credo che, sperando che la drammatica vicenda di Santa Maria Capo Vetere sia un punto di inizio di un nuovo percorso, di un cambiamento radicale. Grazie Nicola D'Amore. Lei ha citato diversi fatti avvenuti anche all'estero che riguardano la polizia penitenziaria, le repressioni, ma anche stando in Italia, anche solo 20 anni fa, la caserma di Bolzaneto per quello che riguardava il G8, sì. Sono state scene molto, molto gravi, sono state azioni molto gravi. Io le volevo chiedere, magari dopo il brano musicale, che sempre ci accompagna, le conseguenze sul vostro mestiere di questi fatti. Ci rivediamo tra poco. Bene. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing. Rieccoci, bentornati. Abbiamo come ospite Nicola D'Amore, agente di polizia penitenziaria e rappresentante del SINAPPE. Nicola, le volevo chiedere un commento sulle conseguenze, immagino negative, su chi come agente di polizia penitenziaria il suo lavoro lo fa onestamente e con onore, invece dovrà subire chiaramente l'onta di queste gravi azioni. Sì, purtroppo è più da parte dell'opinione pubblica che riceviamo gli attacchi, perché l'opinione pubblica non sempre conosce il carcere, non proprio da parte dei detenuti, perché poi il detenuto, la persona detenuta che ti conosce, sa se sei una persona umana, se fai il tuo lavoro e quindi riesce a scindere le due cose, la tua vicenda, la vicenda di Santa Maria Capua Vetere dal tuo operato personale, cioè quello che tu fai. E le posso assicurare che la stragrande maggioranza delle persone, io lavoro a Bologna. Bologna è un carcere, è un istituto molto complesso sotto vari aspetti, sia i circuiti diversi, sia per il sovraffollamento, ma nonostante le difficoltà, anche dovute alla pandemia, siamo sempre riusciti comunque a risollevarci, e ne è stata la dimostrazione di questi mesi. Purtroppo l'immagine della polizia penitenziaria è distrutta. Secondo me, a mio avviso, sarà molto difficile risollevarci. Bisognerebbe innanzitutto riconoscere, prendere distanza da quell'immagine, condannare quell'immagine. Ovviamente giusto processo, condanna a priori, la pubblicazione dei nomi dei colleghi, delle persone che comunque coinvolti in questa vicenda, ma deve essere la giustizia da fare il suo corso, non certo i dibattiti social network, che non servono, anzi sono tossici. Come è tossico anche non prendere delle posizioni nette, perché si ha paura poi di essere giudicato come contro lo spirito di corpo, che è uno spirito di corpo malato. Quelle persone che definiamoli colleghi, ma colleghi non sono, però ci sono dei gradi di giudizio, cioè la presunzione di non colpevolezza, saranno oggetto di valutazione giudiziaria. E quindi per cui in primis bisogna, per rimediare ai danni che hanno fatto quelle persone, che sono poco rispetto a 40.000 unità di polizia penitenziaria, prendere una decisione. Quell'immagine vanno condannate, senza se e senza ma. Grazie Nicola D'Amore, e spero di averla ancora con noi su Liberi Dentro e Durado. La sua testimonianza è stata molto preziosa, perché è una voce da dentro comunque, e quindi alla prossima, e grazie ai nostri ascoltatori. Grazie a voi. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.